Signori e signori, ho il piacere di presentarvi Chiara Bincoletto. Ciao a tutti, perfetto. Grazie mille. È andata, devo dire che questa presentazione è super presentazione. Sì, volevamo un po' gasarti. Pomposa. Oh, accendiamo tutti i microfoni. Cioè, ragazzi, non mi accendeva il microfono. Ma perché tu sei andata via, io ho detto bene, adesso il programma è mio. È andata via. Ci hai provato, Gio, ci hai provato, ma non ce l'hai fatto. Io riuscirò a farti fuori prima o poi. E grazie al mio essere multitasking c'è anche la diretta a Facebook. Incredibile. Abbiamo anche qualche spettatore, vedo da qui forse abbiamo uno, il telefono un po' lontano, dopo mi avvicinerò, quindi se ci volete scrivere anche direttamente dalla diretta a Facebook anche possibili domande o qualsiasi cosa. Comunque ciao. Cioè, ciao, come stai? Io bene, sì? Sono arrivata e già subito tutto bene. Sì, ti abbiamo fatto fare, esatto, le cose di corsa, quindi ci scusiamo. No, ma figurati. Però la diretta è anche questa. Esatto. Voglio dare anche io innanzitutto il benvenuto qui a Radio Città Fujiko a Chiara. Noi ci siamo già conosciute per un programma, esatto, sempre qui a Radio Città Fujiko, quindi è un piacere rivederci. Anche per me. E vabbè, come le ho detto l'altra volta, hai notato, Gio, quanto è giovane. Cioè, siamo giovani anche noi, però lei è più giovane di noi. Quanti anni hai? 18. Quindi sei del? 2000. Ah beh, Billie Eilish. Quindi Billie vedi, cioè, per il nostro orologio, perché devi sapere che l'orologio dalla nostra parte di studio ha dei problemi tecnici. In questo momento segna che è l'anno 2000. Ah, quindi praticamente per l'orologio tu sei appena nata. Beh, è buono. Insomma, sono cresciuta in fretta. Esatto, sei cresciuta in fretta. Esatto. Però andiamo subito, diciamo, alla domanda più importante. Tu sei qui anche, a parte perché siamo una buona compagnia, io e Giovanni. Assolutamente. Io sono venuta solo per te, Lucrezia, la verità è questa. Vedi. Vabbè, io spiego. Eccomi qua, sono tornato. Fa le finte. Comunque è momento serietà, perché noi abbiamo deciso di dividere l'intervista in momento serio e momento cazzeggio. Era il momento serio e siamo partiti col cazzeggio, quindi non va bene. Ma perché fa parte di noi. Comunque, dai, raccontaci il tuo singolo che si chiama Per ricordarmi ancora di te, che tra poco tra l'altro ascolteremo qui in studio. Sì. Vi racconto. Allora, ho scritto, è stata la mia prima esperienza d'autrice, quindi è stato un cambiamento totale, perché oggettivamente da passare a cantare solamente delle cover, quindi interprete. Esatto, quindi come interprete a arrivare a essere un'autrice, quindi a scrivere quello che volevo io. Insomma. Esatto, è già un grandissimo cambiamento, perché comunque hai anche una sorta di responsabilità nei tuoi confronti. Anche perché dicevamo prima, per scrivere un pezzo o scrivere qualcosa, che sia una lettera a qualcuno, però comunque bisogna viverla. Esatto, e ma quindi, oltre, bisogna sempre dire la verità. È questa la cosa, sì, la cosa difficile. Se no si coglie che è un po' forzata. Esatto. Sì. Si coglie sempre quando le cose sono forzate o no. E devo essere sincera, è stata la parte più difficile, quella di cercare di guardarsi dentro e cercare di dire la verità con delle parole belle anche, magari, perché non si può sempre spiegare tutto in tutti i modi. Voi lo sapete meglio di me quanto sono importanti le parole. Quindi bisogna trovare le parole giuste. Esatto, sì. Esattamente. E a proposito di parole, adesso facciamo un super test a Chiara. Qual è la prima parola della tua canzone? Passeggiando. L'ho guardata prima di venire qua e adesso vi spiego. E adesso ci racconta adesso il perché. Vi spiego il perché. Allora, quando sono venuta la scorsa volta, dovevo cantare un pezzetto della mia canzone e ovviamente io, pensando che, avendo l'idea che quando scrivi una canzone, se è tua, ti ricordi tutte le parole, assolutamente. Cioè, chiaro, nel senso, le hai stampate nella mente. Non è assolutamente vero. Non mi ricordavo minimamente quale fosse la prima parola. Perfetto. E sono sempre indecisa se passeggiando o camminando. Quindi sono sinonimi. Siamo lì. Siccome tu vai, scrivi passeggiando, sinonimi, viene fuori camminando. Esatto. E quindi niente, sono dovuta andarla a estrapolare dal testo per cercare di capire quale fosse, ma ce l'abbiamo fatta. Perfetto, insomma. Perfetto. Un dubbio che è facilmente risolvibile. Ma sì, ma anche se poi la cambia. Sì, alla fine, infatti, dai, nessuno verrà a linciarmi, insomma. No, anche perché effettivamente, esatto, poi effettivamente sì, l'inizio esatto della canzone, magari sbagliare il ritornello è un po' più importante. Esatto, la prima parola, effettivamente. Dai, si può fare. Si può fare. Quindi dirò camminando. Guarda, da noi puoi dire tutto quello che vuoi. Tutto quello che finisce con ando puoi dire. Ok, perfetto. Poi abbiamo Giovanni ti ha fatto questa presentazione molto, molto pomposa e ha parlato dei concorsi canori. Ci vuoi raccontare un po' della tua esperienza in concorsi canori? Quali hai fatto? Se hai dei ricordi? Qualsiasi cosa. Va bene, allora, ne ho fatti tanti, devo essere sincera, ne ho fatti abbastanza. Cioè, tanti, non sono mai tanti, però ne ho fatti abbastanza. E niente, sono sempre stata molto contenta di come andavano, perché comunque riuscivo magari a classificarmi, o comunque insomma non ho mai avuto un grosso problema con la posizione primo, secondo, terzo, non mi è quindi mai... Non sei come ultimo a Sanremo. No, esatto. Non sono come ultimo a Sanremo. ma io devo essere sincerissima, gli do una gran ragione. Attenzione, allora, come mai? Io non ho seguito tantissimo Sanremo, ecco, devo essere sincera, ecco, però, ecco. Sono una fan di Ultimo, quindi a me piace quello che scrive, come scrive, e devo essere sincera che ovvio, di sicuro poteva prendersela in un modo un po' più diplomatico, un po' più sportiva, esatto, un po' più sportiva come cosa, però probabilmente io avrei fatto peggio, quindi davvero. In sala stampa non si poteva sentire quello che stava succedendo, adesso parliamone. Io allora non lo so, perché quando sento queste cose io leggo solo la cosa importante, senza poi il giudizio di chi scrive o meno. Allora intervengo. Eccola. No, sapete anche... che sono il tutto sapere su Sanremo di quest'anno. Sì, no, ma spera un attimo, perché appunto quando succedono queste cose a me dà noia, proprio noia. E anche perché non sono per il contrasto, e quindi già non voglio viverlo, figura vederlo alla TV. Ecco, questa però vabbè, è un mio problema questo. Sì, no, io devo essere sincera, appunto, ho seguito questa cosa poi relativamente, perché è stato nel momento in cui c'è stato il boom del problema, che tutti ci siamo fiondati a vedere quello che era realmente successo, e devo essere proprio sincera, in questo caso secondo me è il sistema sbagliato, cioè nel senso è proprio il sistema di Sanremo che ha qualcosa che non va. Poi, ovvio, a livello diplomatico. No, ma anche perché poi comunque lui l'ha firmato questo contratto, esatto, quindi cioè... lo sapeva. Però vabbè, io la chiuderei qua. Sì. Lucri, vuoi fare un'altra domanda alla nostra ospite? Sì. No, non so, non mi ricordo se avevi finito la domanda precedente. No, io non mi ricordo la domanda precedente. Che siamo un trio fantastico. No, siamo un trio fantastico. Dei concorsi canori. Ah, esatto. Sì. Bravo, Gio, incredibile. Sul pezzo. Dei concorsi canori. No, sì, non so. È partito il pezzo. Così a caso. Volevi vedere se ero preparata. Sì, camminando passeggiando. Qual è la prima parola? Passeggiando. Perfetto. Adesso lo sapete anche voi, quindi in caso avessi dei dubbi vi chiamo. Ma ti faccio un cartello dall'altro lato del vetro. Esatto. No, comunque sì, concorsi normali, nel senso. Non... Ma ci puoi fare qualche nome o non si può fare? Castrocaro, sì, ho fatto Castrocaro. Ho partecipato anche insieme a un ragazzo, un pianista. Che salutiamo, Francesco Savoy Colombi, se lo salutiamo. Abbiamo fatto Italia's Got Talent. Wow. Sì. Ma infatti io in realtà sono proprio curiosa di Italia's Got Talent. Com'è andata? Esatto, com'è andata? Allora, ero piccola, quanti anni avevo? 12, 13. Diciamo che in studio c'è anche il papà. Esatto, c'è anche papà, che è quello che si ricorda meglio le cose, quindi io sono un po' smemo da questo lato, un po' in tutto, quindi meno male che c'è lui che mi dice cosa devo fare. Ma quindi il papà sì, dice? Direi 14 anni, sì, dai, sì. Esatto. E niente, è stato... bello, perché c'era Elisabetta Incontrada. Elisabetta, giusto? No, Vanessa. Vabbè, aveva anticipato prima, un po' smemo. Hai dato prova del tuo essere smemo. Tra l'altro mi piace tantissimo smemo. Lo useremo. Non l'avevo mai sentito. No, smemo è... Sì. Non siamo più giovani, Gio. Esatto. E io pensavo fosse altissima, e invece no, invece non è bassa, altissima. Dai. Cioè, è normale. Sì, no, è alta come me. Infatti ero... Quanto sei alta, diciamolo così? 1,58. Ah dai, davvero? Sì, ok. Esatto. E niente, poi di altro di interessante, niente, c'era Frank Matano che faceva un sacco di battute. Mm-hmm. Ma facevano ridere? Sì, facevano ridere. Tra la Litizzetto e Matano non so chi fosse peggio. Bene, vabbè, ma ci sta alla fine sempre, no? Un po' di umorismo così, esatto, anche sì, per togliere, sciogliere un po' quella tensione. Esatto, sì. Però ovviamente sono salita lì sopra, tremavano le gambe in un modo assurdo. Vabbè, a me tremano anche quando sono in diretta qui, rinchiuso in uno stanzino. Ti posso capire. E quindi tu avevi 14 anni, ti sei presentata a queste selezioni, sì. E hai cantato. Sì, ho cantato Listen di Beyoncé, okay. Assieme a Francesco che mi accompagnava al pianoforte. E niente, abbiamo ricevuto i 4 sì. Urca! Però, esatto, però poi non siamo riusciti ad entrare in puntata. Cioè siamo andati in puntata, però non in TV, non l'hanno trasmessa, perché alcune non le trasmettevano. E sono andati solo degli sprazzi di intervista in TV e basta, direi. Però è stata una bella esperienza, devo essere. Però vi siete presi 4 sì. Il teatro era pieno e penso anche un bel applauso. Sì, sì. E poi è stato proprio bello perché c'erano tante persone. Poi era uno dei miei primi concorsi, di quelli che comunque c'è tanta gente. Grandi, quindi, molto grande. Esatto, molto grande, quindi bellissimo, bellissimo. Beh, va in prima serata il venerdì, no? Solitamente. Ma secondo me cambia un po' la programmazione. Ma io credo che sia sempre o il giovedì. No, vabbè, comunque va in onda in prima serata su canale 8, su Sky, penso. No, canale 8 e Sky, anche Sky 1, quindi insomma è un concorso bello, molto bello, deve essere fatto molto bene. Sì. Ma tornando, perché ovviamente fa parte di te e della tua carriera, anche se sei già giovanissima, comunque hai già fatto molte cose, però diciamo che il fulcro della tua carriera in questo momento è il tuo singolo Per ricordarmi ancora di te. Esatto. A me piace sempre molto fare l'analisi del testo, che così sembra grammatica, però capire proprio cosa rappresenta il pezzo. E visto che per una volta abbiamo qui in studio l'autrice, ci vuoi proprio raccontare come mai l'hai scritto? Insomma, quello che ti va, quello che è troppo intimo no, però quello che appunto vuoi condividere con tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ok, allora partiamo con, intanto cito Milano all'interno della canzone, cito Milano perché comunque è stata, ovviamente ho detto prima che era un po' autobiografica, perché ho parlato appunto di una mia storia, e quindi della mia prima storia, e quindi il primo amore. C'è qua anche il papà in studio. quindi niente. Ma è San Valentino. E dice non c'è problema, esatto, fantastico. Esatto. E quindi niente, semplicemente era una sorta di spiegazione di come le cose iniziano e di come le cose anche finiscono. E niente, molto molto tranquilla, insomma, non sapevo. Vabbè, però alla fine è molto spesso una presa di coscienza prima, esatto. O prima o dopo averla scritta, no? Esatto, sì, soprattutto dopo averla scritta. È stata più una presa di coscienza dopo, perché quando le cose poi le scrivi aiutano anche a capire, ti rendi conto che poi le incidi e non puoi più tornare indietro, rendi conto meglio della cosa. Ma quindi, visto che questa canzone è incisa, questa canzone ormai è rimasta, ce l'hai raccontata, siamo curiosi, hai voglia di cantarcela? Sì, ve la canto. E quindi insomma bisogna fare un'altra presentazione pomposa, perché e ve la farò sentire in acustica, non nella versione insomma tutta molto pompata e bellissima. Esatto, ve la faccio sentire piano e voce, quindi perfetto. Allora faccio una presentazione pomposa. Sì, posso? Senza basi però, perché no esatto, proprio solo la mia bellissima voce. Allora siamo qui se la suona, esattamente, siamo qui a Radio Città Fujiko, è il martedì di Fujiko Factory, sono partita lontanissima e abbiamo la nostra prima intervistata, Chiara Bincoletto, che live qui a Radio Città Fujiko e in diretta a Facebook del profilo della radio Radio Città Fujiko. Ora ci ascoltiamo live Chiara Bincoletto, per ricordarmi ancora di te. Passeggiare sotto al sole in un giorno qualunque a Milano e tenersi per mano io e te, a scattarsi le foto per poi guardarle dopo e cantare quella canzone che fa na na na na na na na na. È tutta la notte che penso a quel che ho dentro e che non riesco ancora a capire, per non parlare di te, per le cose cose che non si possono cambiare, che ho tra le mani mentre cambia il colore che sento nel cuore. Tu non sai cosa si prova sulla pelle la spina di una rosa, quanto brucia una ferita mentre viene ricucita. È tutta la notte che penso a quel che ho dentro e che non riesco ancora a capire, per non parlare di te, per le cose che non si possono cambiare, che ho tra le mani mentre cambia il colore che sento nel cuore. In una sera guardando le stelle distesi sul prato, mi sei mancato il ricordo di te quando eri lì vicino a me. È tutta la notte che penso a quel che ho dentro e che non riesco ancora a capire, per non parlare di te, per le cose che non si possono cambiare, che ho tra le mani mentre cambia il colore che sento nel cuore, per ricordarmi ancora di te. Grazie. Dobbiamo dirlo? Sono due, due sì, sì. Ma sono grazie, due sì. Ma che brava. Grazie. Beh, allora, no, diciamo bello. Che brividino, brividino anche qua c'era. Grazie, cioè, sì, sì. Grazie mille. Guarda che non capita tutti i giorni comunque di sentire un'esibizione dal vivo a pochissimi centimetri di distanza, quindi grazie, è stato molto grazie bello. Grazie a voi, grazie a voi. E quindi vi ricordiamo che ho fatto un gioco di parole fantastico, la canzone era Per ricordarmi ancora di te. Esatto. E qui in nostra compagnia al martedì di Fujiko Factory c'è sempre Chiara Bincoletto e ci sarà ancora per, abbiamo ancora più di 10 minuti, quindi. Eh sì, però ahimè c'è la pubblicità. Sì. Che incombe fra due minuti. proprio quindi, quando scacche. Ma allora abbiamo il tempo scaccomatto. Abbiamo il tempo di fare una domanda al volo. Vuoi? Ma certo, ma carissima, ma facciamola questa domanda. No, tra l'altro io sto improvvisando un sacco di domande e tu non fai domande. Quindi... No, ma perché io farei domande stupide? O farei domande sul testo, allora, o farei domande così, tristi. Facciamo così: faccio l'ultima domanda seria e poi dopo la pubblicità andiamo nel cazzeggio. Da lì farò solo domande io. Allora, domanda importante: ma la canzone che abbiamo appena ascoltato è autobiografica? Cioè, sì. Ok. Vabbè, l'ha detto sì. Anche prima. Sì. Vedi, vabbè, vedi, va queste sottolineato, domande. Va sì, sottolineato, sì, scusami. Sì. L'hai scritta tu? Sì. Sì. Sì, sì, sì. Devo essere sincera, mi hanno un po' aiutato, perché comunque io. Vabbè, insomma, la prima canzone, esatto. Chi non si fa aiutare? Anche esatto, Jovanotti esatto. E tutti. Mi hanno si un fa. Po' aiutato e voglio ringraziare per la base che è stata suonata al pianoforte dal mio produttore Raffaele Montanari. Lo saluto. Che lo salutiamo. Ringrazio, esatto, lo saluto e lo ringrazio. E niente, lui è stato lui anche ad aiutarmi a scrivere questo testo, quindi lo ringraziamo due volte. Lo ringraziamo tre, quattro, cinque. E anche allora anche al produttore noi diamo due sì, perché anche sì, la base era esatto, molto bella. Esatto. Belle queste collaborazioni, però ahimè ragazzi, vi devo dire. Collaboriamo dando la pubblicità. Sì, ci sentiamo fra due tra minuti. Tra pochissimo. E siamo arrivati verso gli sgoccioli. Gli sgoccioli sono le 16:31. Quando arriva quest'ora, quando rientriamo dalla pubblicità, c'è sempre tantissima malinconia. Sì, amarezza. Come dire, potevamo dire un sacco di cose. E meno male che non le diremo. Esatto, ma in nostra compagnia, oltre quindi alle voci che dovreste ormai riconoscere, Lucri e Giorgio e Lucri, abbiamo sempre qui con noi Chiara Bincoletto. di nuovo ciao a tutti. Diciamo che abbiamo fatto una prima parte di intervista un po' più pomposa, un po' più seria, ma un po' più canonica. Ma con il nostro sano cazzeggio abbiamo ascoltato Per ricordarmi ancora di te in versione live acustica, che secondo me è stata veramente molto bella. Grazie. Quindi diciamo che è arrivato il momento di fare un po' del cazzeggio. E inizierei subito io. Vai. No, vabbè, la solita domanda: quando è che hai iniziato così a cantare o comunque a dire, cioè, penso di poterlo fare, hai fatto qualche scuola, autodidatta, magari la passione te l'ha data qualcuno, insomma, raccontaci. Ma era una domanda bellissima e seria. Esatto, infatti è una domanda seria, era per il prima. Adesso io mi aspettavo delle domande un po' più arrivano. Ero già lì sul chi va là. No, vabbè, siamo in diretta, non possiamo. Siamo negli anni 2000, visto che esatto. Il nostro orologio dice che sono le 7:31 del 2000. Vai. Allora, la passione che me l'ha fatta venire, insomma, direi che mio babbo, ho trovato una sua foto di quando aveva 6 anni e aveva un microfono enorme che cantava anche lui, quindi diciamo che un po' la passione per la musica c'è sempre stata in famiglia. Okay. E io poi ho iniziato a cantare già da piccolissima, cantavo, ma ho iniziato seriamente in una scuola quando avevo 12-13 anni, all'Art Music School di Bologna, e poi successivamente ho continuato insieme a insegnanti, vari insegnanti, e niente, spero di continuarla sempre la musica, quindi insomma speriamo diventerà il mio lavoro. Te lo auguriamo. E poi in realtà la cosa bella è che c'è qui in studio con noi il papà Mauro, il babbo, che salutiamo, che fa sì con la testa, quindi è bello anche sicuramente avere il supporto e aver preso anche la passione dal babbo. È sempre molto mamma. Importante avere il supporto dei genitori su ogni cosa che si fa, quindi io me ne vanterò sempre di questa cosa, e del tieni fatto lo che stretch. Comunque loro mi supportano sempre in ogni cosa che faccio, e soprattutto che abbia a che fare con la musica, quindi non si può non dire, insomma. Perfetto, grazie. Assolutamente. Una bella cosa. Vabbè, adesso faccio io la domanda che è un po' più cazzeggio, perché in realtà i minuti diminuiscono, perché insomma facciamo troppe domande in realtà. Comunque, visto che ormai lo sai anche tu, la nostra puntata oggi era su San Valentino o San Faustino. Dici un po' anche brevemente cosa ne pensi di questa festività, dell'amore. Beh, appena insomma fatto un pezzo che si chiama Per ricordare ancora di te. Quindi insomma, diciamo che io con San Valentino ho sempre avuto un po' un rapporto, tu stai lì, io sto qui, stiamo un po' lontani. No, vabbè, l'amore è bello se non è litigarello, e no, niente, non saprei bene come cosa dire sulla festività in sé. Ok. Insomma, grande festa? No. Sì, noi in realtà oggi l'abbiamo diciamo un po' distrutto, San Valentino. Ah, perfetto, quindi sono arrivata e io lo distruggo insieme a voi. Ma perfetto, via, perfetto, fai solo che felice Giovanni. Come vedi, che io ho chiuso la finestra perché così San Valentino non entra. Ah, così cioè, siamo barricati. Giusto. Siamo barricati dentro. Giusto, mi pare giusto, bisogna essere previdenti, soprattutto con San Valentino. Sì. Sempre lì che ti aspetta. No, ma perché poi c'è la gente che a San Valentino si sente sola, allora entrano dalle finestre per riuscire a trovare qualcuno. Ma per infatti poi hai visto qualcuno qua fuori che cercava di salire? Ma da infatti, vedi, ma vedi. Abbiamo trovato una scala, l'ho buttata giù. Ma tornando un attimo in un momento sempre cazzeggio ma serio, forse è l'ultima domanda. È l'ultima. Quindi rimarriamo in tema musicale. Okay. Non so, hai qualcosa che ci vuoi raccontare? Un disco che ti è piaciuto particolarmente? Un artista che ti è piaciuto particolarmente? Quello che vuoi, gli ultimi minuti. Allora, un artista che mi è piaciuto particolarmente, direi Ultimo, ne stavamo parlando prima. Contentissima dei suoi album, me li ascolto tutti. Che tra un po' esce, no? Esatto, sì, infatti sono gasatissima. So tutte le sue canzoni praticamente a memoria, so fare anche le terze voci, quindi caso lui volesse fare un duetto io ci sono. Ultimo, quindi senti Ultimo qua. Se ascolti questa intervista, sappi che io sono favorevole a fare un duetto con te, glielo possiamo dire tranquillamente, e niente, mi farebbe anche un grosso piacere per la mia carriera musicale, direi. E niente, sì, vorrei andare al suo concerto, ma è il 4 luglio e a Roma. Esatto, senti un po'. E oltretutto io ho l'esame di stato, quindi voglio proprio vedere come faccio ad andarmelo a vedere ultimo. Allora ultimo, ma mettiamola ad agosto. Ma bisogna pensare a questi giovani che hanno la maturità quest'anno. Questi giovani che hanno la maturità. Adesso aspetto che mi scrive e mi dice no vabbè dai la cambiamo. Tanto hanno solo venduto 30.000 biglietti. Sì, infatti, cosa vuoi che sia. Infatti. Esatto, comunque, sì. Visto che penso che e ti farà piacere, ci ha scritto, aspetta che non si firma, però io riesco a risalire, che dovrebbe chiamarsi Gianluca. Questa ragazza ha una voce incredibile. Grazie mi piace mille. Che ha precisato Chiara Mincoletto, sì, intendo. Sì. No! Tranquillo Gianluca, non pensavo di riferirsi a me. Grazie mille a Gianluca. Bene, allora direi che è finita così, molto bene così. Questa puntata è volato. Ah, ha riso anche se ha risposto. Ha risposto in perfetta tempismo. Grandissimo. Grazie Gianluca. E quindi niente, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Di essere... è stato voi. Bellissimo. Anche per me è stato troppo bellissimo. Breve, ma si esatto. Hanno dei tempi tecnici, diciamo. Sì. Sì. Esatto. Diciamo che il tempo sentiamo che perla. Va via veloce quando ci si diverte. Detta come direbbe un anziano, non lo so. Vabbè. Non lo so, effettivamente lo so. Sì, però allora fatemi fare la conclusione della conclusione. È stata una puntata bellissima, San Valentino, San Faustino, ma in realtà era un semplicissimo pretesto per cazzeggiare un po', divertirci, ricordare sempre e comunque che siamo una radio e siamo due persone contro qualsiasi tipo di stereotipo pregiudizio. E quindi niente, noi vi auguriamo un buon San Valentino, un buon San Faustino, come sempre una bellissima settimana. È martedì, partite carichi, noi siamo partiti carichi. Un grazie super a Chiara Bincoletto e al babbo Mauro per averla accompagnata qui. Ci vediamo presto e noi vi lasciamo col contributo di Mauro ed Eric, scusate, col contributo di Giorgio e Francesca Futura 1993, ma prima chiudiamo in bellezza con Wonderwall degli Oasis. A martedì, ciao. A martedì, ciao.